Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 20. Questo è ciò che succede. Prima c'è la luce, che vieni contro il tuo Massah, il Massah è lì, a causa dello Tsimtsum che hai fatto. Tu sei colui che riflette la luce. Riflettere significa tu senti la forza della luce, ma non la lasci entrare perché ora sai di non aver la forza per lasciare la luce entrare. E sai che non aver la forza per lasciare la luce entrare è il primo stadio chiamato Tsimtsum. È difficile da capire. La luce ci vuole dare piacere, ci vuole riempire con la sua luce completamente fino all'eternità. Sta a noi venire in conformità con lui, con le sue qualità. È la creazione dello Tsimtsum. È il primo passo. È la prima fase di correzione, anche se temporaneamente, perché non ho ancora la forza per ricevere. E mentre faccio questo, io sperimento il piacere. Non è il piacere del ricevere o di Oryashar, è diverso. Oryashar è un piacere diretto, un piacere molto forte. È il piacere di sentirsi vivi. E ognuno di noi riceve da questo Oryashar. Oryashar è un'espressione di come la luce ci viene a noi, cioè in un modo diretto, dall'alto verso il basso. Ma nessuna spiegazione circa la sua qualità. Or Chochmah è qualità. Or Yashar è in qualità Or Chochmah. E Chochmah è saggezza. E Or di vita. Or Chochmah è molto forte. È molto potente. Dentro Or Chochmah è Or Yashar. E non possiamo ricevere questa luce nella sua forma pura. Quindi dobbiamo fare lo Tsimtsum. Tsimtsum significa che rifletto un po' di Or Yashar. E la luce che riflette è Or Choser. Or Choser quindi significa che riflette la luce. E quando c'è Or Choser, significa che hai usato dall'interno la forza per non ricevere Or Yashar. È noto a te che la creazione è stata creata per godere, per sentire il piacere. Ora sai, Or Choser è una reazione su Or Yashar. Or Yashar, la luce diretta, e viene dall'alto al basso. È in qualità E Or Chochma, la luce di saggezza. E Or Choser sta riflettendo la luce. La luce arriva dal basso verso l'alto. È in qualità E Or Chassadim. Or Chochma viene da sopra a sotto. Questa è la luce che dobbiamo ricevere, la luce che ci penetra. E Or Chassadim è anche dal Creatore. In questo vediamo il Kli, il movimento di Borè, con l'intenzione Kavanah. In un modo possiamo sostituire la parola Kavanah con la parola Or Choser. Kavanah è l'intenzione per dare. E in un certo senso Tzimtzum è un atto di dare. Tu dai, ma cosa dai? Non dai nulla perché vuoi venire in conformità con la luce, con Borè, con la sua qualità. Quindi non ricevi. E questo non riceve, non ricevere è come dare. Il tuo rifiuto è come dare per la luce. Solo temporaneamente, perché è sua intenzione, che dovremmo ricevere. È nostro desiderio ricevere. Noi siamo creati con il desiderio di ricevere. Dobbiamo ricevere. Siamo fatti in questo modo. Ma ci manca la forza per il vero piacere. Quindi dobbiamo riflettere Or Yashar. E più tardi, quando abbiamo costruito la giusta intenzione, l'intenzione per dare, allora possiamo, ed è lecito, ricevere. Ma deve essere accompagnato dall'intenzione per dare. Proprio come la storia dell'oste e l'ospite. Or Chassadim è la luce della misericordia. E dentro Or Chassadim abbiamo un enorme piacere. Io sperimento il piacere del dare. Ci sono molte persone anche in questo mondo materiale che provano piacere a dare. Tu e io ci piace l'aspetto del dare. Tutti noi sperimentiamo il piacere nel dare, ma è molto importante per te sapere come tu dai. Devi essere molto attento nell'aspetto del dare. Io posso dare a qualcuno un regalo molto costoso. Ma qual è la mia intenzione? Voglio ricevere indietro il piacere perché ho dato un regalo così costoso. Ma forse lui è una tal persona importante. Devo dargli un regalo prezioso perché è il mio desiderio egoistico di dare. Questo costoso regalo, il prezzo è così alto. Ho bisogno per piacere perché era così costoso. Stai sempre molto attento in questo. Come lo dai? Il tuo dare, perché vuoi dare? Solo allora sarà un vero regalo, anche per te. Solo allora puoi ricevere un chassadim. Questo è il modo per dare. Quando dai e ricevi piacere, un piacere egoistico, solo per mostrare agli altri come sei bravo. La delusione sarà il risultato. E non solo delusione, ti porti ad un livello inferiore. Abbassi te stesso e devi fare del lavoro extra per venire di nuovo al punto in cui eri una volta. Schema 16. Da Ein Sof viene una luce diretta alle creature. Questa luce è chiamata Or Yashar, la luce diretta. Questa è una luce singolare. Cosa significa questo singolare? È una luce, non un completamento di miliardi di scintille separate, gusti. In un certo senso non ci sono mai gusti separati nella luce. Sta all'utente che dà il gusto, cli, tramite le sue qualità personali, dipendendo dal fatto come il suo cli può incorporare questa luce in arrivo attraverso la sua forza di volontà. Or Joser, solo nella stessa misura lui può venire alla comprensione, la sensazione della luce diretta. Or Joser è in un modo la vera incorporazione di un cli nella luce di Borè. E quando questa Or Joser si incorpora alla luce, in arrivo, diventano una cosa sola. E all'interno di questa incorporazione di Or-Hoser, il legame tra Cli e Or diviene reale. Naturalmente questo legame dipende su cosa vorrei dare alla creazione, alla Cli. Come la luce costruisce il Cli, la Malchut. In che modo forma la Malchut il Massach? Or-Hoser. Mentre un Cli riflette o incorpora Or Yashar in Or-Hoser, uno inizia a comprendere cosa sia Borè, qual è il suo desiderio, che cosa è che lui manda. Eccetera. Vedi il disegno. Lezione 17. La Kabbalah è un certo senso un codice. In un certo senso un codice. E userò il più possibile questo codice. Perciò ti do le parole ebraiche, iniziando dallo Zohar, con le vocali e poi la traduzione olandese. Il più preciso possibile. Quindi tradurrò il commento di Ashlag. Ashlag ci offre un commento molto esteso sullo Zohar. E quando avremo tempo, cercherò per voi tutti i tipi di commenti di altri grandi cabalisti. E li tradurrò. In questo modo avrai un po' di materiale e dopo potrai fare un insieme di questo. Allora avrai una luce enorme per te. Per venire alla tua realizzazione. Perché la lettura della Kabbalah ci dà forza, luce. Hai solo bisogno della giusta intenzione, la Kavanah, la Kavanah per la verità. La verità per venire alla tua realizzazione. Questo è quello che deve essere in ognuno di noi. E tu che stai leggendo, hai il desiderio della verità per il compimento. La verità è il desiderio per la propria realizzazione. E abbiamo bisogno di una cosa in più, l'eliminazione del tuo amore egoista. E puoi fare questo leggendo questi testi. Per vedere le parole ebraiche, perché in questo modo riceverai la forza. Ho già parlato della preghiera. Ora voglio darti un po' di più. Accanto alla preghiera c'è una cosa in più nel lavoro spirituale. Uno strumento che puoi usare nel lavoro spirituale, ossia meditazione. E questo è molto importante. Nella religione non c'è meditazione. Una religione dogmatica, ordinaria, non ha spazio per la meditazione. È in un certo senso colui che è religioso non ha bisogno di meditazione. Quello che lui fa è ogni tipo di azioni ordinari, ma nessun lavoro spirituale. La meditazione è lì per te, per aiutarti a costruire lo spirituale. Per portarti in conformità con la forza eterna, l'eternità, la totalità. Abbiamo la meditazione spirituale, specialmente per la prima parte della nostra purificazione interiore. Cos'è la preghiera? Cos'è la meditazione? Quando preghiamo? Quando meditiamo? Facciamo una preghiera quando abbiamo la sensazione dall'interno, una chiara convinzione. La situazione non può essere gestita da noi e abbiamo bisogno di fare una preghiera. Dobbiamo fare una preghiera. E possiamo farlo quando abbiamo dall'interno la convinzione di non essere capaci di fare una cosa. Quando siamo arrivati a un punto, ci manca la forza per fare qualcosa. E allora diciamo una preghiera. Certo, ogni giorno dici la tua preghiera, perché ogni giorno è unico in questa creazione. E naturalmente non ti manca ogni giorno la forza, che ti senti impotente. Ci sono giorni in cui hai forza. E quando hai forza, devi svegliare il punto zero. Cosa significa questo? Questo è il momento per te di dare più impegno per imparare, ad esempio, la Kabbalah, i testi che hai già. Perché ora puoi andare più in alto. Hai la forza di giocare con essa. E vuoi andare più su? Allora hai la sensazione di essere impotente considerando il superiore. Fatelo almeno una volta al giorno. E quando sei onesto a te stesso, avrai una ragione per una preghiera. Non pensare di non aver una ragione, altrimenti non leggeresti questo. Questa è la preghiera. Quando so che mi manca la forza per aiutare me stesso, per fare qualcosa. In un certo senso devi venire ad un profondo pianto dentro te stesso, un grido. Al tuo stadio più alto, Boré. Non è Boré, è la luce che ci sta attivando. È il riflesso della sua forza divina, un timbro. La luce ha fatto in me uno stampo. E a questo stampo devo sottolineare me stesso, e questa è preghiera. Cos'è la meditazione? La meditazione è avere consapevolezza in ogni situazione. Quando sono sveglio, vedo chiaramente ogni situazione e posso guardare nel profondo dentro di me e meditare su di esso. Abbiamo già parlato riguardo al Kli, or Hoser, eccetera. E in questo modo impareremo come meditare. Ti ricordi l'ultima lezione? C'è or, luce, schermo, masach, e cli, un fascello ricevente. Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E ora ti spiegherò questi tre elementi. Qualunque sia la situazione, o quale possa essere la ragione per questa situazione, devo portarla al mio interno e meditare. Ci sono degli aggiustamenti che devo fare. Qualunque cosa sia stabilire sempre un contatto con la luce, entra in contatto con l'eternità. E puoi farlo ovunque tu sei. Nella meditazione ebraica è Yichud. Come hai imparato nella lezione precedente, la Kabbalah è un codice. A Yichud significa integrità, unità. Il plurale di Yichud è Yichudim. Cos'è la meditazione? La meditazione è unità. lo sforzarsi per l'unità. E con cosa mi porto in unità? Con la luce. Con cosa è il mio prossimo passo? In ogni momento, quando ti senti perso, senti un conflitto interiore. Qualunque motivo possa essere, sappi che or ti ha abbandonato. Ma finché senti in te stesso la forza e non sei esausto, medita. Pronuncia lo Yihud. Dare. Dare lo sforzo per venire all'unità. Medita solo quando hai la forza. Questa è la vera meditazione. Perché stiamo facendo questo? Perché è dentro l'istruzione, il programma dell'universo. Tutto è dentro di te, quindi fai ciò che sei capace di fare. Fallo. Questo è Yihud. Questa è meditazione. Perché stiamo facendo questo? Questa è meditazione. E tutto è dentro di te. La vera meditazione è quando hai ancora forza. Sappi, quando hai ancora forza, non è il momento giusto per una preghiera. Finché senti dentro di te un po' di forza, medita. Se fai diversamente, sei impegnato con qualcosa che non ti sta aiutando per andare avanti spiritualmente. Ma quando hai ancora forza, medita. Fai uso della forza che hai dentro di te per venire nell'unità. Questo non è il momento per una preghiera. Una preghiera è un grido per l'aiuto. Conoscere la differenza tra preghiera e meditazione. Quando hai ancora un po' di forza, fai uso di questa forza. Finché hai un po' di forza, usala per venire a Yihud, all'unità. Puoi venire all'unità con te, con le tue proprie forze, e questa è meditazione. Diventa consapevole di questo e salvalo nel tuo cuore. Quando ti abituerai a questo, noterai che andrai avanti molto velocemente, e non solo tu, ma anche ciò che ti circonda. Questo è lo strumento giusto per te, quindi usalo. Tu sai, la Kabbalah è un insegnamento molto pratico. Quando Quello che faccio è darti delle istruzioni, darti alcuni strumenti, ma tu devi metterli in pratica. Devi portarlo dentro di te e medita e vedi cosa puoi usare. Pertanto essere ricevibile è molto importante. Questo è quello che devi fare. Fai te stesso ricevibile per ciò che ascolti o leggi e rendilo pratico. Tutta la tua vita diventerà meravigliosa. Ognuno di noi si trova in una situazione, in una certa condizione, e questo evento mi squilibra. Non sono più in unità con me stesso, con il mio stadio superiore, con la luce. Sento la solitudine e questo è un momento, il momento giusto per me per fare alcune domande su me stesso. Devo fare queste domande su me stesso. Da me che posso aiutarmi in un modo attivo e quindi ho bisogno di fare alcune domande. Guarda il disegno di questa lezione 17. Qualunque sia la situazione, riceverai le risposte eterne. E queste risposte eterne sono giuste, sempre. Devi destarle in te stesso, lavorare su di loro. Sei tu che devi portare la tua condizione in conformità con la giusta risposta. Uno. La mia reazione. Qualunque sia la situazione, comunque ti senti, sii onesto con te stesso e chiedi: qual è la mia reazione? Hai sempre una reazione su ciò che sta accadendo. Impara a dire: ok, qualcosa di terribile è accaduto, ma è la mia reazione. Riguarda la mia reazione. Quello che è fuori di me, nessuna persona può comprendere per quanto saggio sarà. Quello che puoi fare è descrivere la situazione, ma quello che puoi capire sta a te e la tua reazione. La reazione è sempre tua. La tua reazione su cosa è successo. E tu sei colui che la porta dentro al tuo interno. Afferma: è la tua, è la mia reazione. Con questo tu vieni dentro i tuoi confini. E sai, il più alto può essere compreso solo all'interno dei tuoi confini, all'interno dei tuoi kelim. Se fai diversamente, cosa stai facendo? Ti lasci trainare, trainare. In qualunque cosa tu permetti di trascinarti. Pensi di essere umano o pensi che sia terribile? Pensi di avere ragione? E quando lo fai, vieni fuori dai tuoi confini. In un certo senso questo è un atto di adulterio. Un atto di adulterio considerando le correzioni. Considerando il mondo. Considerando Borè il creatore. Ricorda questo molto chiaramente. Sono sempre le tue reazioni su ciò che sta accadendo nel tuo intorno. 2. Ora. Qualunque cosa accade, succede nell'ora, sempre. Sei seduto a casa a pensare a qualcosa. Che cosa fai? Stai facendo adulterio considerando la tua situazione? Quando sei nel passato, qualunque esso sia, un evento di 3 giorni fa, 3 mesi o forse 3 ore fa, stai per preoccuparti e quando fai così, ti togli la vita. Sembra severo, ma questo è quello che stai facendo. Stai portando via la tua vita quando vivi nel passato. Puoi confrontarlo con il suicidio. Che cosa fai? Supponiamo che qualcosa di terribile sia accaduto. Il tuo figlio è morto. Tu sei nel mezzo di un processo di lutto. Questo va bene, ma devi sapere, solo per il momento, non rimanere troppo a lungo in questo processo. Ci sono persone che rimangono in questo processo per anni. Naturalmente ci saranno momenti di ricordo, ma guardali dalla posizione dell'ora. Qualunque sia la ragione, per essere nel passato. Quando rimani nel passato, togli la forza che devi usare ora. Qualunque sarà il ricordo, guardalo dal adesso. Quando posso darmi la risposta dall'adesso, riceverò energia al 100%. Oppure sperimento l'energia al 100% dentro di me. Questo è l'unico modo per gestire la realtà. È sempre nell'ora. Quando sei con i tuoi pensieri nel passato, stai perdendo energia. Diventa consapevole della tua reazione e lavoraci sopra al 100%. Sei tu stesso che devi tirarti fuori dal passato. E quindi hai bisogno di molta forza. Devi fare un mucchio di sforzi. E quando lo fai, avrai il 100%. O quasi. È lo stesso con il futuro. Non stare lì troppo a lungo. Un lampo è abbastanza. Più e più volte devi tornare nell'ora. E quando lo fai riceverai il 100%.